Buongiorno a tutti. Allora, giovedì io distribuisco, l'ho detto prima ai ragazzi del terzo anno del modulo B, i moduli di valutazione dei corsi. Sono i due tipi, come sapete. Uno viene mandato all'osservatorio dell'università presso Barack Obama, no? L'altro invece viene compilato subito. E lo ritiro subito. L'altro invece è un colloquio anonimo, naturalmente, con il sottoscritto, e vi do una settimana di tempo per scrivere qualche nota secondo le indicazioni che lì ci sono. Quindi siate presenti, perché poi non possono essere dati in un secondo turno, altrimenti non viene garantito, tra l'altro, l'anonimato, insomma, no? Quindi giovedì questo. Quanto al nostro lavoro, tra poco vi dirò anche quanto mi daranno delle aule disponibili, insomma, per fare queste ore aggiuntive, e noi eravamo al 21 bis, si parla, al 21 bis, che potremmo intitolare, come ho detto, incapace di agire, e poi, siccome ormai dobbiamo saltare un grosso numero di pagine, calcolate che dovete saltare a pagina, per me 225, quindi sono 24 pagine, grosso modo. Adesso vediamo un po' per voi com'è. E comunque il capoverso, mettiamo che sia 24 pagine o qualcosa del genere, vediamo. Il capoverso è in rencontrare personne dans l'escalier. 200? Benissimo. Occorre dire qualcosa della, naturalmente come puntura dell'altra. Allora, avete tutti capito naturalmente che è aperto la finestra, quindi siamo in un clima meraviglioso. Avete tutti capito che quando uno vince al Totocalcio o al Superenalotto, la sua vita diventa un po' un inferno. Perché ti dico, ma è lui che ha vinto, eccetera, eccetera. Frederick è un molle, un debole, quindi è la persona a cui delle sanguisughe possono attaccarsi maggiormente. E quanto più uno è debole, quanto più ha degli amici che hanno invece una forte personalità, tanto più gli amici sanno che quello è un pollo da spolpare. Uno di questi è naturalmente l'amico del cuore, straordinario personaggio, feroce, stupido, cattivo e affettuoso, come gli va comodo a lui, che è Delorier, l'avvocato, no? Quello che vorrebbe fondare un giornale e che ha una carriera politica in mente e che chiede adesso non so esattamente se è qui, ma comunque l'episodio è così centrale che anche se non è in queste pagine, tra poco ce lo ritroviamo. Chiede un prestito a Frederick. Un prestito. Voi sapete che i prestiti sono cose che se avvengono fra persone che si amano possono distruggere un amore. Lo dice Flaubert. Nessuna tempesta può distruggere l'amore come una tempesta economica. Ah, due cuori, una capanna, col carro. Al momento opportuno, se tu offri al tuo partner il tuo cuore e la paglia di una capanna, vedi quel che ti trovi. No? Due cuori, una capanna. E chiede quindi questi soldi. Chiede questi soldi. Quanto chiede? È una bella somma, qualcosa come 16.000 franchi. E lui, un po' per levarselo di torno, quindi un po' per vigliaccheria, e questo è un altro aspetto, io ho parlato di debolezza finora, vero? Però c'è una parola che non abbiamo ancora pronunciato per quanto riguarda Frederick, ed è anche la viltà, la vigliaccheria. È un eroe al negativo, gli eroi al positivo. Il telefonino l'avete qualcuno aperto? Mettetevi una mano sulla coscienza, anzi, meglio sul telefonino. Guardate un po', lei ce l'ha aperta, lei ha la faccia di uno che ce l'ha aperta. Controlla, secondo me ce l'ha aperta. No, vabbè. Che stavo parlando? La vita. Però è facile, la codardia, insomma, è una cosa naturalmente all'antitesi dell'eroismo, e questo è codardo completamente. No, ecco, questa medietà dell'essere è un elemento su cui ogni volta con voi. Ragazzi, scusate, dovete vedere se ce l'avete aperta. Abbiate pazienza, vi chiedo questa cosa qua, perché sennò è fastidioso per tutti, scusate. Perché questo fa così soltanto se c'è un telefonino aperto. Guardate rapidamente, è meglio guardare così non ci dà nulla. L'avete visto? Chi era il bastardo che l'aveva fatto? Qualcuno c'era, eh? Ecco. Vabbè. Speriamo. Non riesco a prendere il filo. La codardia. Cioè, vedete, anche questo è estremamente moderno. Cioè, uno non è vigliacco completamente, un cacasotto assurdo. Capite? Ci si cacca sotto a metà. Ha capito la differenza? No? Nel senso che poi vediamo invece che fra poco lui ha una sua forma di coraggio. Ma vogliamo aggiungere a questa codardia a metà anche una sorta di pigrizia, di indolenza, di stanchezza, di fatica? Voi che siete giovani, moderni, forse qualcuno di voi non si sente rappresentato da questo modello d'uomo? Io dico sì. Tutti siete un po' pigri. La palla degli esami, le lezioni, il caldo, la famiglia, gli appuntamenti soliti. Questa vita in sapore che spesso rifiutate, ecco perché ognuno di noi, dice Flaubert, ognuno di noi disperatamente aspetta che in fondo a quella strada, a quel rettifilo sabbioso, che è nel caso della Bovaria, la strada che stava davanti a casa sua, un giorno arrivi qualcuno e ti faccia cambiare l'esistenza. Anu è un porco, come sapete, no? È un farabutto. A un certo punto chiede, quando ormai Frederick è deciso a dare 16.000 franchi, erano franchi o euro? Erano franchi. A Delovier, così se lo leva dalle palle, così eccetera. Frederick, dico a lui, dice: sono rovinato. Devo andare, e devo andarmene via da Parigi. Devo vendere tutto. Io ho bisogno assolutamente di 18.000 euro. C'erano già gli euro. 18.000 euro. Una somma più o meno corrispondente a quella. E lui dice: ma come? Dice, ma io non li ho, non li posso trovare. Ah sì, ma non importa, non è che vi richiedo, guardate, perché è una cosa molto semplice, me ne vado via da Parigi. E lui pensa: ma come se se ne va via la moglie pure. Prende da una parte i 16.000 euro che aveva riservato a Delorier e li dà ad Arnaud, purché sua moglie non se ne vada via, purché lui non se ne vada. Momento meraviglioso. Naturalmente Delorier torna da lui e fa: allora, li saordi, uso un'espressione romanesca, li saordi, dice proprio così, no? E lui dice: sono ancora arrivati così. Poi a un certo punto dice: li ho persi al gioco. Potete immaginare la reazione di Delorier, che aveva tutto puntato in questa direzione. giura odio immedicabile ed eterno a Federica. È l'inizio del loro dissidio. Questo episodio tenetelo, non lo odio, già naturalmente tenetelo ben a mente, perché adesso vediamo invece un episodio che leggiamo, bellissimo, in cui lui va a trovare Madame Arnoux. Dove sta? Dove sta? Perché capite, la cosa affascinante è che Madame Arnoux prima abita in una casa, poi abita in un'altra, adesso la troviamo altrove. E la cosa bella è che lui va a caccia dell'amato. Va a caccia dell'amata. Lui arrivò a un stabilimento, a una fabbrica di ceramiche, adesso, e sta fuori Parigi. E lei è lì, abita lì. E quindi lui, una casa di campagna, lui va quindi a trovarla. E la vede. E come vedete, ogni volta il tentativo di avvicinamento superiore, ogni volta cerca di fare un passettino in più, però non ce la fa, però non ce la fa. È questa sorta che ci affascina di, se mi intendete, di conto impossibile, di conto impossibile. C'è sempre un conto in senso complessivo, non riesce assolutamente a fondersi con questa donna. E però adesso sentite quello che capita. E sentite l'arte di due volte la racconta. Quando lui va a casa di lei, e da questo capoverso che vi ho detto, è il capitoletto 22, che diamo come titolo L'irrealtà dei sogni. Non incontrò nessuno sulle scale. È nella casa di lei, in campagna, vicino allo stabilimento di Charlie. Al primo piano sporse la testa in una stanza vuota, era il salone. Chiamò ad alta voce, nessuno rispose. Senza dubbio la cuoca era uscita, la camera governante pure. E infine, giunto al secondo piano, spinse una porta. Madame Arnoux era sola, davanti a... Questo mi è impossibile dire in italiano, perché nei miei luoghi di origine, che sono in Piemonte, mia zia, tutti lo chiamavano solo in questo modo, sapete che i piemontesi e i francesi sono simili. Sì, era l'Armoire à glace. Come vogliamo tradurlo? L'armadio con la specchiera. Per me è sempre stato l'Armoire à glace. Un armadio con lo specchio. Come si scrive? L'armadio a specchio, sì. Però a me dà una sensazione. Quindi dico l'Armoire à glace. Allora, Madame Arnoux era sola davanti a un'armoire à glace. La cintura della sua vestaglia schiusa lungo i fianchi, schiusa pendeva lungo i fianchi. Tutta una parte dei suoi capelli faceva un'onda nera sulla spalla dritta, destra. E aveva le due braccia alzate che trattenevano con una mano il chignon, uno dovrebbe dire la crocchia, ma la crocchia è brutta. Chi è che ha la crocchia? C'è qualcuno che ha la crocchia? A lei piacerebbe che qualcuno le dicesse la crocchia, no? La chignon, sente come funziona bene, lo dica così, chignon, dica un po' crocchia. Allora, cosa faceva? Stava aggiustandosi il chignon in alto, mentre con l'altra mano vi infilava dentro una spilla. Gettò un grido e scomparve. Poi tornò vestita correttamente. Il suo corpo, gli occhi, il fruscio della veste, tutto lo incantò. Frederick si tratteneva dal coprirla di baci. Vi domando scusa, ella disse, ma non potevo. Egli ebbe la arditezza di interromperla. però prima stavate così bene. Lei trovò senza dubbio il complimento un po' grossolano perché i suoi zigomi si colorarono. Egli temeva di averla offesa e della riprese. Qual buon vento vi porta qui? Egli non seppe che rispondere. E dopo un risolino che gli diede il tempo di riflettere, se me lo dicessi mi credereste? Perché no? Frederick raccontò che aveva avuto la notte prima un sogno spaventoso. Ho sognato che eravate gravemente ammalata, in punto di morte. Oh, né io né mio marito siamo mai ammalati. Io ho sognato soltanto voi, disse lui. E lo guardò con aria calma. I sogni non si realizzano sempre. Frederick balbettò, cercò le parole e si lanciò infine in un lungo periodo sull'affinità delle anime, una forza esistente che poteva attraverso gli spazi mettere in rapporto due persone, avvertirle di quel che esse provano e farle congiungere. Lei ascoltava a testa bassa, sorridendo del suo bel sorriso. Egli osservava con la coda dell'occhio, felice, espandeva il suo amore più liberamente sotto la banalità di un luogo comune. Vediamo questo passo. Volevo notare per incidere su una cosa che credo che non vi ho detto ancora, della punteggiatura flaubertiana. Volevo farvi notare che procede spesso con dei periodi che hanno virgole, punti e virgole, quello che volete voi, e poi a un certo momento, nel caso, lui mette un punto e virgola o una virgola e un trattino, una lineetta, e dopo la lineetta mette la congiunzione copulativa e. Quindi l'ultima proposizione diventa una specie di chiusa musicale e di ornamento, una sorta di griff stilistica, lui, tipica sua, capite? Quindi c'è una serie di proposizioni, ripeto, e poi l'ultima è staccata da una lineetta e dalla congiunzione copulativa e. Oltre alla lineetta non c'è, ma la congiunzione copulativa e c'è sempre a chiudere la descrizione complessiva. Niente, vi viene in mente questo, qui lo abbiamo, ma per incidere volevo dirlo. Allora, la vede nell'intimità. L'eros da che cosa nasce? Nasce da un progressivo, ma progressivo, violare l'intimità della persona. Se noi ci troviamo a violare l'intimità della persona tutto d'un colpo, l'eros non nasce. Ma se prima la persona era seduta a un altro posto alla tavola con tutti i commensali, quando all'inizio aveva incontrato Madame Arnoux, anzi, prima ancora era proprio separata, era sul ponte della nave, no? In coperto. Poi pian piano si è avvicinata, voi vi ricordate quella bellissima passeggiata che viene fatta fino a un negozio in cui lei si ferma di sera e lei ha la mano sul suo braccio. O lui ha la mano sul... No, lui ha la mano sul suo braccio. Non mi ricordo più. Lui ha la mano sul suo braccio. Comunque, sono due persone che camminano e sono separate. Si sta andando sempre più vicino, capite? Ecco. C'era una cosa una volta molto bella, stimolante, che poi nel corso del tempo è stata assorbita da altre cose, era lo spogliarello. Ecco, voi sapete che cos'è lo spogliarello? Ora non si pratica praticamente più perché le donne sono nude praticamente dalla nascita. Ci sono magari gli spogliarelli maschili in cui si calcola la lunghezza del membro maschile, come dire, no, queste cose qui. Insomma, Ma lo spogliarello è una grande arte, perché tu ti avvicinavi al nudo della persona, alla verità della persona, attraverso cose oggi molto ridicole, insomma, danze, balli, eccetera, mi ha buttato via il venerdì sera, tutto. E poi non succedeva all'ultimo niente, però l'eccitazione naturalmente dello spettatore maschile era altissima. E qui abbiamo una sorta di spogliarelli, nel senso che ci avviciniamo sempre di più alla donna. Lei viene vista nell'intimità. Questa intimità è data, lei ha dei piedi enormi, sono dei piedi tra i più grandi che io abbia veduto negli ultimi 15 anni. Senta un po', che numero va di scala? 47? 48 e mezzo. Di certo la tetta di questo genere, niente, scusate, avete visto come mi distrago però rapidamente? Di cosa stavo parlando? Di qualcosa di alto o di elevato? Dell'intimità, pensa delle sue tette, all'intimità, che abisso. Ma voi siete abituati a questi miei voli pindarici. È vista davanti all'armadio con la specchiera. Un armadio con lo specchio, diciamo la verità, è uno degli arredi erotici più importanti. Che le belle donne si possono, nelle loro nudità, si possono esibire, si possono controllare i capelli. Quello che noi a Roma chiamiamo il capello, al singolare maschile, è in una donna essenziale. E quindi si guarda per l'appunto i capelli e si mette davanti allo specchio e come ha la vestaglia, questo bastardo, come ci racconta la cosa? Ha la vestaglia, questo ha veramente rotto le palle. Ha veramente rotto. Cazzo! Ha una vestaglia semiaperta, e con questo ho detto tutto, semiaperta, schiusa, e la cintura della vestaglia scende lungo i fianchi. Ora voi sapete, per il pubblico prevalentemente femminile, che i fianchi sono un luogo topico del desiderio maschile. Fianchi vuol dire poi quello che sta dietro i fianchi, girati, avete capito bene di che cosa stiamo parlando. Andando a est o a ovest ugualmente, capite? Cioè l'uomo è molto più interessato a quello che per esempio alle unghie, ecco, ai gomiti, ecco, è più interessato ai fianchi. Dice la vestaglia che è schiusa. Il momento di intimità, l'intimità pericolosa, l'intimità pericolosa, diverso dagli uomini, eh? Io ho con la mia donna in casa, a volte la vestaglia schiusa, quando mi alzo al mattino, e però non vengo guardato minimamente da un pubblico dalla donna. Qui a volte giro il zip in casa e lei non mi fila di pensa. Ma fossi una bella donna, la vestaglia schiusa, la cinta sui fianchi, e lei ha i capelli neri, un'onda di capelli neri, anch'io. Cioè, se avessi un'onda di capelli neri, ma questo naturalmente è improbabile, ce l'ha questo, no? Ma notate che la ragione per cui poi sto scherzando non è soltanto nella comparazione del sottoscritto a Madame Arnoux, è per farvi vedere che lui ci sta giocando, lui Flaubert ci sta giocando con questa descrizione, perché ci sta infilando la spilla, ma quando vede lui, che cosa fa? Scappa con un grido e scappa come una ninfa. Ora vi faccio presente che Madame Arnoux è dipinta come una persona piuttosto corposa, direi deliziosamente corposa e carnosa, no? Non come una ninfa delle acque, comunque siamo in casa, però è così riservata e chiama rispetto che viene dipinta come una ninfa pudicissima. E va via. Poi torna correttamente vestita. Correttamente. La parola corretto dice tutto, no? Cioè il pervenismo, Una volta, molti anni fa, mi capitò di ammonire una mia allieva che aveva un décolleté gigantesco, spaventoso, che si aveva tutto. E lei mi disse poi, quando tornò, dicendo: adesso spero che lei mi veda correttamente vestita. Mi dico: sì, sì, apprezzo questo fatto. Dunque, la vita, dai, vuol dire vita. Quindi è il busto, eh? Il busto, c'era gli occhi e il fruscio della veste, queste tre cose insieme lo incantavano. E naturalmente Frederick, che è un giovane, puledro, per così dire, vorrebbe zoppare addosso. Vorrebbe zoppare addosso, se dite come romanesco è più efficace. Se io dico saltarle addosso non rendo l'idea, ma zopparle addosso rendo l'idea. E quello che è delizioso è che Flaubert continua a trattare i personaggi per quel che sono, cioè Frederick imbranato era e imbranato rimane, lei rigida era come se le avesse infilato una scopa, avete capito? Dove? Avete capito tutto, no? E rimane rigida, perché lei dice: mi domando scusa, ma non potevo immaginare, cioè, e lui risponde, una delle frasi più scemi che si possono dire, cioè dice: ma però stavate bene prima, cioè sei venuta, cioè che è una frase quantomeno arrivata, volgare, tanto è vero che lei si rigidisce, diventa rossa e chiede, ma perché siete venuto, per quale motivo, qual uomo vento, eccetera. E lui che cosa fa? Lui ha, guardatela, lui non sorride, ma un sogghigno, come hanno gli uomini, anche le donne, ma gli uomini, soprattutto timidi, imbarazzati. È una specie di sorriso verde, per così dire, un sorriso ghignetto che si concede per poter intanto prendersi del tempo. Prendersi del tempo e rispondere nel modo più adeguato. E quindi comincia a dire, e qui sentite che, insomma, nemmeno un quindicenne risponderebbe così, probabilmente. Dice: ho avuto, se ve lo dico mi credete, c'è qualcosa di vezzoso. C'è qualcosa di vezzoso e di goffo. Questa espressione vezzosità che mi sta venendo in questo momento sulla punta della lingua, in realtà fa pensare a un qualche altro elemento. Cioè la vezzosità normalmente non è del sesso maschile. Cos'è la vezzosità? Ecco, come la definirebbe? Chi è che è vezzoso? Una donna, no? Per esempio, lei come si chiama? Fabrizio, guardate Fabrizio. Fabrizio è un bel ragazzo. Io non so quanto sia l'ampiezza del torace di Fabrizio, ma guardate che spalle del genere sono spalle da scaricatore di porto, eh? Guardate questo ragazzo. No, è importante che ci presti come cambia, eh? Guardate qua. Lo definireste vezzoso? No. Molti di voi potrebbero essere a buon diritto definite vezzose, cioè giocano sui loro vezzi per cercare di essere attraenti e seducenti. Ma io ho detto vezzosità applicandola a uomo. Apposta. Difficilmente le mie parole sono imprecise. Perché lui non è, come dire, del tutto uomo. C'è anche questo elemento. Di fronte a Delorier che ostenta l'eredità, lui non ostenta affatto l'eredità. Lui è morbido, dolce. E questa persona così ricca e complessa ci affascina, che è Frederick, ci affascina anche per queste sue inopinate ricchezze, quella per esempio della vezzosità. Allora dice che ha fatto un brutto sogno. Quale? Chiede lei. Ho sognato che voi eravate ammalati gravemente. E questo in qualche modo è un modo molto rozzo, banale, per poter mostrare tutta la sua attenzione affettuosa nei di lei confronti. E lei però quel V no, pensa che sia rivolto non solo a lei, ma anche al marito. In realtà lei sa benissimo che è rivolto a lei, ma non osa pensare che sia rivolto solo a lei, no? Perché sarebbe imbarazzata nel rispondere. E quindi accomuna, sentita la finezza, il marito anche in questa sollecitudine di Frederick. Ma potete immaginare a Frederick quanto gli importa di Arnoux che sia ammalato. Per cui quando lei dice, oh, né io né mio marito siamo mai ammalati, bene, e lui risponde, io con rozzezza quindicenne, dice, ma io solo voi pensavo al vostro ammalato. Quello che dirà, che cazzo ne frega, il vostro marito. In realtà c'è un qualcosa di più che dobbiamo notare in questa bellissima frase. Né io né mio marito siamo ammalati. Vediamo un poco se il vostro ingegno, che dovete esercitare, trova, qualcuno di voi ha lasciato il telefonino acceso, diciamo le cose come stanno. La prossima volta lì. C'è qualcosa di volgare in questo né io né mio marito siamo mai malati. Cioè in questo dire scoppiamo di salute. Perché una donna tende a presentarsi per sedurre, ma questo è certamente lo scopo di una donna, che solo all'idea di sedurre si sentirebbe morire, tende a presentarsi come fragile, no? Molte donne sono state mal pagate dalla vita perché hanno avuto degli aspetti maschili o una voce per esempio tonante. Io ho conosciuto una donna molto intelligente, collega, anziana, qui all'università, era un fiore di bellezza, intelligentissimo. Due laurea, non conta niente, le laurea non conta assolutamente niente. Ma due, cinque, se conta questo. Questa donna aveva la voce tonante. E come fai ad avere una voce tonante? No? Desideri che la donna che tu ami sia una persona fragile da tenere in mano. Quanto è vero, ci sono molte donne che fanno le virago con i loro fidanzati, compagni, e ottengono soltanto un rifiuto da parte del fidanzato, perché insomma la topica vuole che la donna sia fragile, da coccolare, da proteggere, ma probabilmente non solo la topica, è la sessualità maschile che vuole quello, La sessualità maschile, perché all'uomo è dato tutto un certo impegno penetrativo, per cui ha bisogno di avere le forze sufficienti, è difficile penetrare un Ercole. Tutto è possibile, e viste le dimensioni sue, io posso immaginare che lei possa avere delle contubernalità fisiche con un Ercole. Però, voglio dire, una persona normale, un ragazzo che ha tutta l'aria di essere, guardi un po', guardi in faccia. Guarda un secondo, quel ragazzo lì, qui, primo, questo qui, lei che non si sottrae, conosce Daniele, magari Daniele avrà delle virtù sessuali strane, noi non possiamo sapere, nessuno, io non lo so, neanche lei lo sa, e neanche a me, da questo punto di vista non interessa, sarei anch'io, siamo tutti due ben felici per me, però voglio dire, sembra che ci può uno, lei no, lei sembra uno normale, sembra uno che può farsi una caccia trappediniere, insomma, voglio dire, una cosa gigantesca, da idea, capisci? Un uomo normalmente vuole una personcina dolce, fragile, anzi le donne che sono donnoni cercano di rendersi donnini per piacere, e questo è il senso del discorso. Se io trovo una che mi dice, io cerco di sedurre una signora e mi dice, ah no, né io né mio marito siamo mai malati, e penso che sono due porci, ma con mai anche un mal di testa, un'emicrania, un qualcosa che... È chiaro il concetto, no? Quindi mai una aspirina. Neanche una aspirina? No, tonnifero, niente. Allora, quando sente parlare, dice, io ho pensato soltanto a voi, lei a questo punto risponde in un modo a cui noi dobbiamo abituarci. Da persona che esprime una moralità dura, ma come dire inappartenente, è una moralità corrente, dei moralisti classici, no? In cui si cerca di tenere a bada gli impulsi negativi delle persone. E allora dice questa frase: i sogni non sempre si realizzano. No? Io avevo una zia buonanima che parlava per proverbi ed era una cosa terribile, perché per esempio io guardavo il cielo verso sera e lei diceva: rosso di sera. Io ero preoccupato con qualche cosa e lei diceva: il diavolo non è mai così brutto come lo si immagina. Quando io mi ero indotto all'ottimismo a seguito del suo sentenziare, lei mi diceva crudelmente: il peggio deve ancora venire. Andando avanti con questa serie di riproponimi, andando avanti in questo modo, naturalmente si snaturava come persona, aveva poco da snaturarsi perché non era granché dal punto di vista intellettuale, però certamente era un assortimento di proverbi. E vediamo che questi proverbi prendono, e questa è una cosa che la critica di Flaubert ha poco analizzato, perché normalmente si glorifica in modo abbastanza beota la sottigliezza di questa amata Madame Arnoux, trattandola come fosse Beatrice. Ma Flaubert era uno il cui sogno era di palpare il culo alla serva. Avete capito? Quindi era uno, non so se il concetto è chiaro oppure ve lo devo dire in modo più sofisticato, era uno carnale, soltanto che era diviso fra questa carnalità e il sogno di Dio. Di un dio donna, il sogno di un dio donna. Quindi, nella fattispecie, lei risponde in questo modo assolutamente inadeguato, e però, e lui naturalmente fa un'altra cavolata, cioè comincia a parlargli dell'affinità delle anime. Cioè, sapete, quando si ha 20 anni, e soprattutto quando si ha la disgrazia di essere maschi, cioè si deve avere una sorta di iniziativa, adesso io non so i vostri tempi come sono le cose, ma normalmente una volta era il maschio, aveva un'iniziativa. E allora era uno dei temi classici, era quello di dire così: mi sembra di averti conosciuto da sempre. Io mi ricordo che avevo una mia frase standard, avevo conosciuto effettivamente una ragazza a Bordeaux, alla stazione di Bordeaux, quando avevo 14-15 anni, e poi non l'avevo più vista. Però questo mi sembrò utilizzabile. E quindi poi mi ricordo quando arrivava qualche ragazza carina, poi questo mi capitò con mia moglie, perché già l'agganciai in questo modo, e disse: ma io ti conosco. E disse: sì, non mi sembra. Dico: ma sì, tu eri la ragazza che ho incontrato alla stazione di Bordeaux. E lei, l'anima di mia moglie, mi guardò e mi rispose: è vero, e tu eri il facchino che mi portava le valigie. E questo mi conquistò notevolmente. Tu eri il facchino che mi portava le valigie. Ecco, cioè, a quell'età, Moviac diceva come violenza l'idiozia a 20 anni, a quell'età c'è questa mirabile idiozia che non è poi rilevata tanto perché sono tutti stupidi. Siamo tutti stupidi. Poi ci rendiamo conto a posteriori, quando siamo stupidi in altro modo, della stupidità di quell'età. Lei sorride. Andiamo oltre a questo capitoletto per almeno cercare di... 1, 2, 3, eccoci qua. E siamo con il capoverso: rien de plus dit-il que cette punition. È il 222, vedete voi, questo è il nostro capitoletto 23, che ha come titolo Severità indispensabile. Severità indispensabile. Allora, breve spiegazione, interlude. Come sapete, noi stiamo seguendo una storia che è quella centrale dell'educazione sentimentale, no? è la storia di Fredrick, della sua formazione, dell'amore suo. Abbiamo visto la figura di Rosa Negra, che continueremo naturalmente a vedere, vedremo quella di Madame. Che cosa abbiamo saltato nell'educazione sentimentale? Abbiamo saltato i tre quarti. Perché? Perché non era possibile fare. Abbiamo privilegiato l'asse del romanzo, ma i tre quarti li abbiamo saltati. I tre quarti sono l'educazione, come dire, sociale e politica di Fredrick. L'aver conosciuto Farabutti, una persona onesta, e l'aveva attraversato avvenimenti di grande portata, come per esempio il 48, il celebre 48, i moti del 48. La politica occupa un grande spazio, è mirabilmente realtà. Com'era Flaubert politicamente? Dunque, Flaubert anzitutto era un conservatore. Era un conservatore, ma era disincantato e disilluso della politica e in particolare dei fervori rivoluzionari che prende in giro sostanzialmente. Questo però senza essere assolutamente un sostenitore della monarchia. Era un uomo, come poter dire, di una destra intelligente, ma direi sostanzialmente apolitico. I tempi di Flaubert furono tempi di scontri spante politici e si vedeva che i fautori della rivoluzione, per motivi di interesse e di fanatismo, potevano diventare fautori della destra, più forcaioli del nocco. Questa è una cosa che capita spesso. Sulla scena attuale italiana abbiamo persone a destra che erano fortemente a sinistra. Per esempio c'è un ceffo vergognoso che fa il TG4, credo, che si chiama Liguori, l'avete presente? Paolo Liguori? L'avete presente? Questo Liguori era un uccello, voi naturalmente non sapete di cosa sto parlando, erano persone di lotta continua che andavano a fare irruzioni nelle case di intellettuali, cacavano per terra, rompevano tutto, se ne andavano per oltraggiare queste case. Di lotta continua erano quasi tutti. Giuliano Ferrara era vicino a lotta continua. Sofri, ne parliamo, era il capo. Quello col brutto come la morte, quello il conduttore Gerd Lerner, era lui di lotta continua. Pian piano si è potuto vedere uno spostamento di costoro, cioè di cuori passò dall'estrema sinistra all'estrema destra. Questo tempo ci ha avuto a delle grandi trasformazioni, insomma. Mai io, figlio di un partigiano, avrei immaginato, come dicevo l'altro giorno ai ragazzi di Magarmè, di dover sostenere in pectore, figlio di un partigiano condannato a morte, che era mio padre, di dover sostenere in pectore Gianfranco Fini, e questa è la massima presa per i contendi che poteva capitarmi nell'esistenza, insomma, sta di fatto che chi è all'estrema sinistra si sposta all'estrema destra. Un personaggio dell'educazione sentimentale si chiama Senecale. È un uomo di estrema sinistra, è poco, un Robespierriano di rigore assoluto, che trasferisce poi il proprio rigore per motivi di interesse nell'aiuto di padroni e padroncini, uno dei quali è proprio Arnaldo. Senecale, quindi, che noi vediamo all'inizio come uomo di estrema sinistra, diventa di estrema destra e, come vedremo, uccide una persona della sua parte politica. Uccide una persona perché è un uomo sostanzialmente crudele e malvagio. Quindi era crudele a sinistra, diventa crudele anche a destra. Si chiama Seneca. Nel momento in cui lo incontriamo, e adesso lo lasciamo per motivi di tempo, lui è praticamente una sorta di custode, no? Di impiegato, di Arnolfo, per guadagnare qualche soldo. Lui faceva il ripetitore di matematica, guardate la finestra, matematica, cioè qualcosa di duro, legnoso, no? Rigoroso. E adesso lavora presso Arnolfo. Vede che c'è un impiegato, un'impiegata che si è comportata male perché ha mangiato durante il lavoro. E quindi bricio o cose del genere potevano cadere per terra. Allora dice, voi, la bordolese mi piace, voi avete trasgredito l'articolo 3. E questa che fa? Ah sì? 3 euro, sì, 3 euro. 3 franchi di multa. E questa cosa, fate quello che volete. Intanto quando viene il padrone mi faccio togliere la multa. Lui sempre genio fa. Ah sì? In subordinazione ai superiori. Sono 10 franchi di multa. Questa viene multata del suo magrissimo stipendio. E questa carota di Senecal, per fare gli interessi del padrone, la mette in queste condizioni. Questa scena viene vista da Frederick e da Adam. Vediamo la prossima volta.